24 mattino. Alle 7.19 una buona giornata da Laura Bettini per 24 mattino, tra pochissimo la rassegna stampa, oggi a curarla è qui con me Gigi Donelli. Noi ci ritroviamo invece alle 8.15 per l'intervista e alle 8.30 con Bianco o Nero. Oggi parliamo di affidamento di bambini a coppie omosessuali. Siete d'accordo? Per votare c'è sempre il sito internet di Radio 24 e adesso la rassegna stampa. In primo piano. Eccoci qua, un saluto a tutti voi per quest'ultima rassegna stampa dell'anno, di questo venerdì che casca perfettamente 31 dicembre. Poi approfitto per ricordarvi domani il Sole 24 Ore, tutti i quotidiani, appunto, i quotidiani non saranno in edicola, quindi ci risentiremo e saremo ancora insieme il 2 di gennaio, domenica, per riprendere appunto il corso delle nostre letture insieme. Avete sentito qual è il tema di Bianco o Nero oggi? Come ricordava Laura Bettini, radio24.it per cliccare, per dare il vostro contributo a quest'ultimo sondaggio della settimana e dell'anno. Avete anche sentito all'interno di GR24 dell'apertura del Sole 24 Ore, Marchionne uomo dell'anno, da cui partiamo dunque, da Torino a Detroit regole globali per il progetto neoindustriale. L'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, protagonista del 2010 per le scelte nell'anno auto, dalla finanza alla rete, gli altri leader che sono nella pagina e nelle pagine interne ci sono appunto gli altri votati della classifica interna del Sole 24 Ore. Questo per il Sole, mentre il Corriere apre su Battisti, un caso diplomatico. Siamo in attesa di una decisione che ormai appare scontata, naturalmente vi daremo conto nel corso dei giornali radio. Dunque, l'avvocatura brasiliana dice no all'estradizione e Roma risponde inaccettabile. Questa la posizione, il titolo scelto dal Corriere della Sera, mentre a centropagina l'altra notizia italiana importante di oggi, l'università, dunque Napolitano, firma ma chiede miglioramenti. È stata infatti promulgata la legge, la Gelmini dice salvi gli emendamenti, gli elementi portanti dunque del suo progetto. Nel taglio basso invece, a proposito, naturalmente oggi troviamo molti bilanci, classifiche, riepiloghi. Ecco, per quanto riguarda il Corriere, nel taglio basso è Borsa di Milano, più dolori che affari. In 12 mesi l'indice ha perso il 13,2%, eppure c'è chi ha guadagnato anche più del 50%. Sempre nella prima pagina un richiamo, poi magari avremo tempo di leggere qualche passaggio, a un'intervista doppia in qualche modo che ci riporta alla questione Fiat, ed è quella infatti al ministro del lavoro Sacconi, al leader della FIOM Landini. Intesa Fiat, finalmente si chiudono gli anni 70, dice Sacconi, e un Landini invece personale, privato, che ricorda il suo passato, gli inizi della sua attività sindacale, ma anche i rapporti con il PC e con il compagno D'Alema. Questo sulla prima del Corriere questa mattina. Vediamo un po' Repubblica, che apre decisamente, dedica gran parte del suo spazio, dei suoi caratteri, proprio alla vicenda Battisti, e parla di scontro Italia-Brasile verso l'asilo politico. Lula decide oggi e Palazzo Chigi appunto dice inaccettabile. Lo scempio dell'ipocrisia è il commento affidato questa mattina a Benedetta Tobagi su questa vicenda. Una vicenda su cui Benedetta Tobagi si esprime in maniera chiara e dice: Cesare Battisti, un criminale comune politicizzatosi in carcere dopo l'incontro col militante dei PAC Arrigo Cavallina, condannato in contumacia con una sentenza la cui correttezza, con buona pace di Fred Vargas, cioè la scrittrice, è stata riconosciuta dal Tribunale Supremo Federale del Brasile. Ci torneremo. Volevo segnalarvi ancora due notizie. C'è naturalmente ampio spazio per la legge sull'università anche sulla prima di Repubblica, ma c'è anche un angolo in un taglio basso dedicato a un paese che è molto vicino ma che conosciamo ben poco, se non per lo più per turismo, la Tunisia. Tunisi tra i ragazzi che combattono la rivoluzione del pane, un reportage, ancora una storia che arriva dalla Sicilia, l'ultimo record della Sicilia raccontata da Emanuela Lauria, 165.000 euro per 7 ore di lavoro. Però la regione scioglie la commissione Lumaca per riformare lo statuto. Ancora notizie in prima pagina, oltre a quanto abbiamo detto, appunto Battisti e Università che campeggiano sulle prime pagine, per la Stampa è anche l'occasione per ricordarci un cambiamento, un vero e proprio vento dell'est. Che succede? Succede che da domani la presidenza belga dell'Unione passa la mano a quella ungherese, ma contemporaneamente Estonia il primo euro dell'ex URSS. Infatti da domani Tallinn adotta la moneta ufficiale dell'Unione Europea, e riflettendoci è davvero un percorso impressionante pensare che 20 anni fa l'Estonia faceva gli acquisti in rubli, oggi, o meglio domani, comincerà a farli in euro. Tutto questo in un anno che abbiamo ben seguito quanto sia stato complesso e quanto abbia messo in discussione, in crisi, lo statuto stesso della moneta comune. Il Messaggero, Battisti, tensione Italia-Brasile, ecco in primo piano la fotografia che racconta, che accompagna un commento, e dice: quest'uomo si batte per noi. L'uomo è Alberto Torregiani, l'uomo che vuole la giustizia che mai ha avuto. Dice di essere stato condannato all'ergastolo 21 anni fa da innocente. Le mura che mi tengono prigioniero non sono di cemento ma trasparente. Mi è stata tolta la libertà di camminare, ballare, scalare le montagne, di vivere i miei sogni da calciatore. Quella libertà non la avrà più. Non c'è clemenza per il suo carcere o risarcimento possibile per gli anni di ospedale. Dunque naturalmente Torregiani, figlio ferito in maniera appunto definitiva, drammatica, che lo costringe alla sedia a rotelle da 21 anni nell'agguato, nella rapina che costò, tra l'altro, che costò la morte del padre. Questo per il Messaggero. Naturalmente il quotidiano romano ricorda in particolare la vicenda anche dal profilo storico e della città e della famiglia. Ecco, a centropagina invece per il Messaggero i concerti di Capodanno. Stasera, accanto alla speranza di un fiore fragile, è Baglioni che racconta il concerto di Capodanno che si tiene a Roma. Vediamo le altre aperture. Il Giornale, è finito l'anno delle escort. Questo è il commento di Veneziani. Vedremo poi di leggere insieme qualche passaggio. Ma anche il patto Fiat, l'Italia si è liberata dal fattore Agnelli. La gestione simpatica, tra virgolette, a spese dello Stato, ha paralizzato il paese. Oggi finalmente l'impresa torna al suo mestiere, quello di fare utili. Rapidamente le altre prime pagine. L'anno ingiusto viene definito dall'Unità, mentre il personaggio dell'anno di Liberazione non è Zuckerberg, quindi Facebook, e nemmeno Assange. Come simbolo del 2010, il giornale Liberazione sceglie gli uomini e le donne della Fiat. Ancora, umiliato da Lula per il Riformista, questa mattina in edicola. Berlusconi protesta ma si perde Battisti. Mentre per Libero l'apertura dell'anno, che non sorprenderà credo molti, è dedicata a Fini, i cognati dell'anno. Lui è peggio di me. Gianfranco Fini e Giancarlo Tulliani, una coppia che sembra pescata direttamente dalla commedia italiana, solo che non fanno ridere. Ecco, nelle classifiche di Libero c'è anche spazio per l'orecchino dell'anno che è Ventola, il sindacalista dell'anno che è Marchionne e il giornalista dell'anno che è Minzolini, direttore del TG1. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi indagato, l'Italia dei Valori denunciato per Alitalia, inchiesta della Procura di Lecce dopo l'esposto di un azionista per conto dei creditori. Gli atti sono già stati trasmessi a Roma. Nel taglio centrale l'immagine è quella di Cesare Battisti al suo arrivo a Brasilia. Battisti, lo schiaffo di Lula. Vediamo la Padania, Calderoli, senza federalismo è la fine della legislatura. E poi foto di Bossi con dedica, si può dire, il riposo del mattatore. Ecco, direi che ci siamo. Abbiamo soltanto una segnalazione che invece, a proposito di auguri, che arriva dal Giorno. Oggi in prima pagina ha un astronauta, l'astronauta italiano Paolo Nespoli, attualmente appunto sulla Stazione Spaziale Internazionale, che dice buon 2011 a tutto. Ci risentiamo tra poco. in primo piano. 7:32 minuti, rieccoci, tempo di auguri anche da parte dei nostri ascoltatori. Già cominciamo a riceverne questa mattina attraverso SMS, naturalmente un ringraziamento a tutti voi, chi come Sandro che si sveglia molto presto, evidentemente che già da un paio d'ore ci ha mandato gli auguri per un grande 2011, un augurio che naturalmente noi rivolgiamo a voi. Ma proseguiamo sulla lettura dei quotidiani, ne abbiamo ancora due o tre per le prime pagine. L'Avvenire, a proposito di classifiche, dice: le persone dell'anno, l'elenco dei martiri assassinati, 23 operatori pastorali. Quindi l'organo dei Vescovi apre su questa particolare classifica, ma anche su Vaticano e Finanza, una casa di vetro, dettate dal Papa nuove severe regole. Si legge un elemento di sollievo in questa decisione, il commento di Padre Lombardi che dice: la Chiesa sempre più credibile. E Davigo, che viene citato appunto categoria esperti, parla di norme più avanzate di quelle italiane. Per un ultimissimo citazione, visto che ci sono tante classifiche oggi, citiamo anche quella della Gazzetta dello Sport: Mu, l'uomo del 2010, per la prima volta dopo 32 anni la redazione della Gazzetta sceglie un tecnico e non poteva che essere, per la tripletta con l'Inter, quello appunto di José Mourinho. Ecco, questa la carrellata delle prime pagine che abbiamo aperto appunto dal Sole 24 Ore, ma ripartiamo un po' da quelle che è la notizia del giorno e l'attesa, notizia peraltro costruita nel tempo ma legata alla data del 31 dicembre, di fatto solamente dalla scadenza del mandato del presidente Lula, che passa la mano proprio nelle prossime ore. Dicevo della riflessione di Benedetta Tobaci, che appunto, dopo aver definito Battisti un criminale comune, politicizzato e si incarcere, riflette sulla vicenda e dice: il pensiero, quello appunto della Tobaci, ma non solo, evidentemente, corre ai familiari dei quattro uomini per i cui omicidi Battisti è stato condannato. Il maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, 52 anni, del poliziotto 25enne Andrea Campagna, del gioielliere Torreggiani, 43 anni, del macellaio Lino Sabadin, 46 anni, assassinati tra il 78 e il 79, quindi in un tempo anche brevissimo. La concessione dell'asilo politico a Battisti sarebbe l'ennesima ferita per loro e per la giustizia italiana. Nel campo dei rapporti bilaterali, prosegue la Tobaci, la legittima domanda della giustizia italiana si scontra con la realpolitik nutrita dai fortissimi interessi economici che legano Italia e Brasile. Basta ricordare che Lula l'altro ieri stava inaugurando un nuovo stabilimento Fiat in Brasile, oppure Telecom, che considera il Brasile una seconda patria, o l'accordo di partnership militare, 5 miliardi di forniture militari da Finmeccanica e Fincantieri. Insomma, le relazioni sono fortissime tra l'Italia e il Brasile. Brasile che proprio attraverso la voce, le parole del presidente uscente Lula da Silva, l'altro giorno, durante l'apertura dello stabilimento Fiat appena citato, ha esclamato: saremo la quinta potenza mondiale nel 2016. Di fatto una crescita annunciata di un paese che sta facendo passi da gigante all'interno, nonostante le enormi disparità e le complessità di un paese come appunto il Brasile, e anche all'esterno. Il Brasile è tra i più attivi dei paesi della diplomazia internazionale, in particolare sul fronte delle risorse in Africa e nei paesi in via di sviluppo. Insomma, tutto questo non impedisce però che gli elementi anche di pressione tra Italia e Brasile siano utilizzati e che si faccia ricorso. Ma a quanto pare, invece, secondo la Tobaci, questi appaiono più degli strumenti quasi di freno nell'esercizio di queste possibilità. Leggiamo ancora qualche passaggio. Ora i politici di centrodestra, dice la Tobaci, si affannano a ostentare atteggiamenti intransigenti e a stracciarsi pubblicamente le vesti, almeno sulla scena. Ma cosa hanno fatto nella sostanza per cercare di gestire politicamente e diplomaticamente una crisi che si trascina da anni? Proprio la classe di governo, che non perde occasione di agire in maniera intimidatoria e falsificante e di agitare, lo spettro di un ritorno degli anni di piombo, ha dimostrato di essersi mossa in modo goffo e ipocrita in una questione concreta, una ferita aperta lasciata dalla stagione dei terrorismi in Italia. Ecco, questo è il punto di vista di Benedetta Tobagi. A proposito di questa vicenda, vi cito anche qualche riga presa dal Foglio, il titolo già Lula Hop, il presidente annuncia all'ultimo la decisione vecchia di mesi, intanto si prende i soldi della Fiat, e ci rivela un altro aspetto di questa vicenda. Secondo tutti i sondaggi la maggior parte degli elettori brasiliani è favorevole all'estradizione di Battisti, che è considerato dai più un volgare rapinatore. Ecco, ma in questa vicenda, dice il Foglio, c'è la storia di una nuova fabbrica che Lula è andato a inaugurare nel Pernambuco poco prima di pronunciarsi su Battisti. 1.770 milioni di dollari di investimenti per produrre 200.000 veicoli all'anno a partire dal 2014. Questo, dice il Foglio, scrive il Foglio questa mattina, è il classico stile Lula, come quando firmò un accordo con George Bush e uno con Chavez, quindi il suo grande rivale sudamericano, nello stesso giorno. Forse per questo motivo che il presidente si dice sicuro che l'Italia non reagirà alla mancata estradizione di Battisti. Ecco, due dei molti commenti oggi su questa vicenda. Io direi che invece passiamo all'altro tema, o meglio ci avviciniamo all'altro tema, ritornando alla prima pagina del Sole 24 Ore. Abbiamo detto che ovviamente oggi è giorno anche di classifiche, di citazioni, di auguri. Ecco, Alberto Alesina oggi sulla prima del Sole riflette sui brindisi e su chi brinderà in questo 2011, e dice: nel 2010 la crescita dell'economia mondiale è stata di quasi 5%, un tasso elevato simile a quello del periodo pre-crisi. I paesi emergenti sono cresciuti a tassi da record, e non si tratta solo di Cina ma anche di India, di Brasile appunto, e del resto del Sud America e persino di molti paesi africani. La povertà nel mondo continua a scendere e, dato che i paesi ricchi crescono meno di quelli poveri, anche la diseguaglianza nel mondo si è ridotta, e questa non può che essere una buona notizia, aggiungo io. È presto per sapere se all'interno dei paesi ricchi la crisi abbia fatto aumentare o scendere la diseguaglianza. Ma sicuramente a livello mondiale la povertà è scesa. Nei paesi in via di sviluppo il 2010 sarà ricordato come un anno straordinariamente positivo. Anche questo è interessante, come dire, una riflessione globale, mentre dal nostro paese la visione che abbiamo è diversa, probabilmente, certamente diversa. Ecco, questo successo, questo risultato, prosegue Alesina, si deve in gran parte al fatto che non si è caduti nell'errore del protezionismo che seguì la crisi del 29. I paesi emergenti non si sono chiusi e hanno continuato ad abbracciare politiche di libero mercato. Il populismo stile America Latina degli anni 80 è solo un ricordo. Le liberalizzazioni in India continuano. In alcuni paesi africani stanno uscendo con fatica dal circolo vizioso di corruzione estrema e sottosviluppo. Il tanto criticato capitalismo continua a macinare crescita per la stragrande maggioranza dell'umanità. E infine, è difficile rendersi conto di tutto ciò da un'Italia semiferma, in un'Europa attanagliata da crisi fiscale o dagli Stati Uniti in una ripresa debole e molto ineguale. Ma allora che cosa chiedere al 2011? Ecco, nella colonna principale invece, allora proseguiamo, facciamo un collegamento tra la riflessione di Alesina e quelle di Gianni Riotta, il direttore del Sole 24 Ore, che dice: il mondo si è messo in movimento, così il mondo si batterà nel 2011 per creare ricchezza per contendersi quella esistente. Così il mondo va dalla Cina, che compra il debito greco mettendo in piedi in Europa come ha fatto in Africa, mentre tiene d'occhio il mercato dei minerali rari, agli Stati Uniti, che il professor Kennedy conferma in declino, ma Roma che il giovane presidente Obama vuol tenere in corsa. Al Brasile, ancora una volta, il Brasile liberista dell'ex presidente Lula, all'India, incapace di controllare i conflitti etnici, di liberarsi dalla burocrazia, ma forte nel software, nell'uso intelligente del background orientale britannico. Per l'Italia, eccoci dunque, ferma, ipnotizzata dal passato, dalle sue fruste contese, in scacco tra il dominatore della politica degli ultimi tre lustri, Berlusconi, incapace di riformare l'economia, e un'opposizione incapace di riformare se stessa, sarà un anno cruciale. Chi si illudesse di passarlo traccheggiando con un governo in bilico, una politica bigliosa, un giornalismo isterico, un sindacato nostalgico di un'industria che non esiste più, imprese incapaci di misurarsi con la globalità, l'opinione pubblica chiusa su se stessa perderebbe 365 giorni decisivi. Ecco, questo il commento che, o meglio, la doppia riflessione sull'attesa di questo 2011, sui 365 giorni che verranno, dalla prima pagina del Sole 24 Ore questa mattina. Proseguiamo dunque aprendoci sul mondo. Vi ho parlato di un'apertura importante su cui tornerei, che è quella che ci porta in Estonia, un paese piccolo, un paese dell'estremo nord-est, al confine appunto con la Russia, con l'altra repubblica, ex Repubblica Sovietica Baltica di Lettonia, e con la Finlandia, un paese che appunto compie un balzo formidabile dal rublo all'euro in soli 20 anni. Oggi ci viene raccontato in un lungo reportage curato da Marina Verna, che appunto racconta la realtà di questo paese. Domani diventa il primo paese ex sovietico a entrare nella moneta unica, senza paura né nostalgia, tanto ormai tutto si paga con internet. La Russia è lontana, un changeover così fluido non si improvvisa certo e ha tante spiegazioni. La prima è il carattere degli estoni. Sono pacati, pragmatici, misurati, dice Andrea Pompermeier, numero 2 dell'ambasciata italiana a Tallinn. Hanno il senso della misura. Si confrontano con i loro vicini lettoni, travolti dalla crisi e salvati dal Fondo Monetario Internazionale, e si sentono solidi. Si confrontano con la Finlandia, 3 ore di traghetto, mezz'ora di aereo, e sentono che, pur essendo molto più indietro, raggiungere quel livello non è un obiettivo impossibile. Se poi guardano la Russia, è solo per compiacersi della distanza che ormai li separa. Una cartolina dunque da Tallinn, e adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade italiane. In primo piano, Marchionne, uomo dell'anno, oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore. Allora, a proposito di questo accordo, naturalmente, di cui si è parlato a lungo e si parlerà sicuramente nelle settimane, nei mesi a venire, vi segnalo una doppia intervista che il Corriere della Sera raccoglie alla sua pagina 9. Da una parte il ministro del lavoro Sacconi, che dice la svolta Marchionne è l'addio agli anni 70, dall'altro il leader dei metalmeccanici CGL Landini, 9 anni in fabbrica a Cavriago e le mie liti con il PC, una sorta di racconto appunto personale fuori dalla fabbrica di quello che è uno sicuramente dei protagonisti di questa vicenda. Insomma, vi cito solamente alcuni passaggi. Per Sacconi dice: questi accordi significano la fuoriuscita dalle rigidità, invece la condivisione tra le parti di un percorso di investimenti e di crescita. Sono positivi per le imprese e per i lavoratori e portano a un vero aumento dei salari. Aumenteranno perché gli operai lavoreranno di più, chiede Enrico Marro. Questo governo ha confermato e migliorato l'aliquota agevolata del 10% sul salario di produttività e, a parità di orario, grazie alle maggiori paghe base, agli inquadramenti, alle turnazioni, i lavoratori guadagneranno più di prima. Gli accordi Fiat mettono però in crisi un nuovo modello contrattuale dopo appena un anno di vita. No, in realtà recepiscono, risponde Sacconi, la novità di questo modello, cioè che il cuore del sistema è l'azienda. Ma Federmeccanica è preoccupata, teme lo scontro con FIUM-CGL. La dirigenza di Federmeccanica si è dimostrata in questi anni coraggiosa, tant'è vero che ha concluso 3 su 5 rinnovi contrattuali senza la FIUM. In ogni caso, lo Statuto dei lavoratori garantisce anche a questo sindacato piena libertà di associazione. A proposito appunto della FIUM, poco più in basso, il punto di vista di Maurizio Landini, che è emiliano, 49 anni, e che il 20 giugno di quest'anno, dal 20 giugno di quest'anno, è segretario generale della FIOM CGIL. Dice: trovo legittimo, si riferisce in un primo tempo alle divisioni a sinistra su questo accordo, trovo legittimo che Fassino esprima il suo senso alla trattativa, ma non è giusto farlo mettendosi nei panni di un operaio. Fassino aveva detto testualmente, appunto, se fossi un operaio voterei di sì. Quindi dice, non ha il diritto di vedere il mondo da quella parte. Noto che nel PD ci sono posizioni diverse, non solo quella di Fassino e D'Alema. Quello che mi sconcerta del PD è la leggerezza con la quale vengono fatte certe dichiarazioni. Landini racconta la sua esperienza di vita professionale. 15 anni, dice, cominciò a lavorare come apprendista saldatore in un'azienda artigiana e poi passai alla CETI, un'azienda cooperativa metalmeccanica, dove divenni tubista. Ma insomma, racconta la sua esperienza e poi dice una cosa, quello che lo fa arrabbiare davvero: Landini si imbestialisce soltanto a sentirsi definire un signor no. Ingiusto, dice, la FIOM è la sigla che chiude più accordi, ci dipingono come un sindacato che guarda indietro, ma rivendicare autonomia e indipendenza è invece segno di modernità. Anche per questo critico CISL e UIL, hanno subito un ricatto, o firmate o chiudiamo, e hanno chinato la testa senza considerare che nel modello proposto da Marchionne è insita la cancellazione del sindacato confederale e dei diritti di chi sta in fabbrica. Insomma, un'interessante lettura sugli sviluppi e i punti di vista intorno a questa importante decisione. Ritorniamo dunque, visto che siamo giustamente in un clima, in una lettura che inserisce pienamente anche quello che è il ruolo dell'Italia in un mondo globalizzato. Beh, forse approfitto per segnalarvi una parte di mondo che, come vi ho detto prima, ci sta molto vicina, ma che in realtà frequentiamo e conosciamo poco da un punto di vista politico, sociale e culturale. La Tunisia, la rivolta censurata, i giovani laureati sfidano il regime, i disoccupati si danno fuoco, la rabbia contagia le piazze. Che succede? A metà dicembre due giovani laureati disoccupati si suicidano, un altro viene ucciso negli scontri con la polizia, la protesta dilaga nel paese. Il reportage a firma di Alberto Flores d'Arcais, che parte appunto da Tunisi, davanti al Ministero degli Affari Sociali, a pochi minuti dalla Medina, il cuore di Tunisi, una cinquantina di persone discute animatamente. Non faccia troppe domande qui in giro, ci sono diversi poliziotti, no, questa è una manifestazione, no, questa non è una manifestazione di protesta, stiamo solo chiacchierando tra di noi. Solo uno dei più giovani accetta di allontanarsi per rispondere a qualche domanda. Dice di chiamarsi Ahmed, un nome molto diffuso, e quando lo dice ride. Sì, è vero, qui nella capitale ci sono state proteste e se continua così altre ce ne saranno. No, niente di organizzato, è che siamo stufi, la crisi colpisce tutti, ma noi giovani ne paghiamo il prezzo più alto. Non dia retta ai giornali, quelli sono tutti schierati col governo. Solo Al Jazeera racconta come vanno veramente le cose. E le cose non vanno bene nella Tunisia di Zine Abdelin Ben Ali, il presidente autocrate che dal 1987 governa con pugno di ferro e guanto di velluto questo paese del Maghreb, così vicino all'Italia. Due settimane di proteste e scontri, manifestazioni di piazza e studenti, ribellioni per una crisi economica che per molti significa fame. Prima nel centro del paese, lunedì scorso, e poi anche nella capitale. Proteste piccole ma significative, un malcontento evidente che nella storia della Tunisia moderna, che nella storia della moderna Tunisia azioni del genere sono molto molto rare. Ecco, uno spaccato su una realtà che, come dicevamo, è poco nota. A proposito di fatti che in qualche modo chiudono e saranno legati a questo anno 2010 che va appunto a concludersi, sicuramente una segnalazione riguarda il caso Khodorkovsky, dunque fino alle sbarre per altri 5 anni e mezzo, ma soprattutto per un caso che sta profondamente lacerando addirittura ai vertici della società russa. Infatti intorno alla condanna dell'ex petroliere, ex uomo più ricco di Russia, nonché 17esimo uomo più ricco al mondo, era nel 2003, prima appunto di essere mandato in prigione in Siberia, emerge la profonda divisione tra il primo ministro Vladimir Putin, arcinemico di Khodorkovsky, e il giovane presidente Medvedev, che attraverso i suoi portavoce proprio in queste settimane si è anche espresso in favore di una sentenza di assoluzione. Ecco, tutto questo in vista ormai, anche se insomma non vicinissime, di elezioni presidenziali del 2012, che tecnicamente permetterebbero all'ex presidente Putin, oggi primo ministro, di ripresentarsi per quel ruolo. Allora, il caso oggi è raccontato nei dettagli da Lucia Sgueglia da Mosca, e innanzitutto parte da un elemento di cronaca che dice: l'unica a reagire è Marina Khodorkovskaya, la madre che grida al giudice: siate maledetti voi e la vostra progenie. Poco prima Danilkin, il giudice, aveva letto: non ci sono le condizioni per una condanna con la condizionale, i due devono essere tenuti in isolamento dalla società, e questo significa ritornare appunto nel carcere siberiano, dove sono reclusi appunto Khodorkovsky e Lebedev ormai da parecchi anni. Siamo quasi alla conclusione, vi segnalo solamente due articoli, due storie interessanti dal Corriere, dal Manifesto, che fanno il punto sulla vicenda in Costa d'Avorio, assedio al presidente e la lunga marcia dei giovani patrioti, e poi anche una storia per concludere, una storia davvero diversa, che arriva invece dalla Stampa. Il ragazzo di città in fuga da tutto per fare il pastore, racconta: a scuola era un disastro, mi sentivo in prigione, adesso quando vedo il mio gregge sono finalmente felice. Ecco, questa è una frase che non so voi, ma insomma in qualche modo mi fa sorridere. Poi leggendo l'articolo si vede che effettivamente la ricerca della felicità individuale a volte segue dei percorsi assolutamente imprevisti. E Andrea, che è figlio della classica famiglia borghese piemontese, l'ha trovata in una professione antica, in un modo di vivere assolutamente particolare, e questo naturalmente è un'altra buona notizia. Siamo arrivati alla conclusione. Da parte mia naturalmente un augurio per un felicissimo 2011, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia. Ora vi lasciamo agli aggiornamenti di GR24. 24 mattino. L'intervista. Le 8:19, ben ritrovati da Laura Bettini per l'intervista. E per l'intervista partiamo da un caso genovese ben descritto nei giorni scorsi dal Secolo XIX. Vi leggo l'articolo: lo chiamavano Venerdì. C'è un bambino a Genova al quale i genitori hanno imposto questo buffo, simpatico nome. Ma una corte di giudici, anzi la Suprema Corte di Cassazione, ha deciso che Venerdì sarà anche un nome simpatico, ma è troppo buffo, troppo insolito. E così il bambino è stato ribattezzato d'ufficio Gregorio, il santo del giorno in cui ha visto la luce. Ma insomma, dicono papà Diego e mamma Mara, perché Francesco Totti ha potuto chiamare sua figlia Chanel? Perché Yaki Elkana ha un bambino chiamato Oceano e noi non possiamo chiamare il nostro Venerdì? La Cassazione ha confermato il decreto della Corte d'Appello di Genova, che il 10 novembre 2007 aveva convalidato la rettifica del nome già stabilito in primo grado dal Tribunale del capoluogo ligure. Insomma, tre processi, tre sentenze, tutte univoche per dire che quel bambino non può portare in giro quel nome. Lo aveva detto subito l'ufficiale di Stato civile, che aveva rifiutato di scrivere Venerdì sull'atto di nascita. Ora è sancito senza possibilità di ulteriore appello. Venerdì sarebbe un nome ridicolo e suscettivo di ironia e scherno, hanno ricordato i giudici nella sentenza di merito. Mauro Parducci, presidente DEA Demografici Associati, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Lei è un esperto del settore, per l'appunto, per quanto riguarda l'aspetto anche proprio dell'anagrafe. Cominciamo quindi subito dal finale. L'ufficiale di Stato civile ha rifiutato di scrivere il nome di questo bambino, il nome Venerdì, sull'atto di nascita. Insomma, ci si può rifiutare come in una situazione di questo genere? Ma intanto non credo che l'ufficiale di Stato civile si sia rifiutato, perché la norma prevede espressamente che di fronte a certi divieti di legge l'ufficiale di stato civile debba informare i genitori del divieto cui vanno incontro, poi se i genitori insistono nel volere in questo caso attribuire un determinato nome, l'ufficiale di stato civile forma l'atto con quel nome e successivamente, immediatamente dopo, informa con una comunicazione ufficiale la Procura della Repubblica competente, la quale, se ne ravvisa gli elementi, inizierà un procedimento che, come nel caso del nostro venerdì, potrà portare anche a delle pronunce giurisprudenziali. Probabilmente così, altrimenti la cosa non sarebbe finita in tribunale. Certamente sì. Senta, non ci può essere un rifiuto a priori, ci può essere un avvertimento dato in un certo senso. Ma per quali cose l'ufficiale dello Stato civile ti dice guarda, sarebbe meglio di no, non si può, oppure proprio è totalmente vietato? In quali casi è vietato? Allora, guardi, la legge da questo punto di vista, quindi il regolamento dello Stato civile, che peraltro è abbastanza recente, è stato approvato nel 2000 ed è entrato in vigore nel 2001, è abbastanza chiara, in quanto la legge stabilisce che non si può dare a un bambino lo stesso nome del padre per evitare evidenti, come dire, possibili omonimie, no? Non si può dare al bambino un nome di origine storica, eccetera. E inoltre, tipo, non ci si può chiamare legge, Giulio Cesare, non lo so, così di origine. Com'è? No, quando diceva non si può dare un nome di origine storica. Sì, non si potrebbe, per esempio, a un soggetto che porta il cognome Garibaldi e che magari nasce a Genova attribuire il nome Giuseppe, no? Perché questo potrebbe infrangere questo divieto. E inoltre, qui si arriva a un caso ancora diverso, il nome, dice la legge, deve corrispondere al sesso, quindi è evidente che a un bambino di sesso maschile non si può attribuire il nome Giovanna, in quanto esiste il nome Giovanni. È il famoso Andrea che rimane. Ecco, ma infatti me lo immaginavo che mi avrebbe domandato questo. Detto questo, c'è però da stabilire che ci sono alcuni nomi che nel nostro italiano non hanno una sicura e certa corrispondenza al maschile o al femminile. Lei ha citato per esempio il nome di Oceano. Può apparire bislacco, strano. Io sono convinto che, siccome il nome è, come ci ha ricordato la Corte Costituzionale, segno distintivo della persona, cioè serve a dare un'identità a una persona, ma si fonda su un diritto personalissimo e su un principio di libertà attinente alla sfera personale dell'individuo. Per cui, da una parte, bisogna sempre rispettare il più possibile la volontà dei genitori, i quali nel momento in cui attribuiscono il nome si assumono una responsabilità sulla quale poi risponderanno prima di tutto, da grande, coi figli. Figlio, il quale figlio può sempre, una volta diventato adulto, eventualmente anche cambiare il nome. Si può, perché magari c'è quello che si chiama Gatto Silvestro che non ha molto piacere. Brava. Io ieri ho fatto, così per curiosità, una ricerca su internet. Ci sono dei nomi, perché vede, quando si dice, come dice la Cassazione nel caso di venerdì, dice il nome potrebbe essere ridicolo, ovvero ironia o scherno, sì. Però il nome non è solo il cosiddetto prenome Mauro, Giovanni, Antonio, Francesca, ma è l'insieme del nome più il cognome. Per cui un cognome comunissimo come Mori, se al bambino gli do il nome Remo, e l'insieme di Mori più Remo porta a qualcosa di poco simpatico. E allora in quel caso vedo bene un ufficiale di stato civile che fa notare questo, l'attenzione ai genitori su questo. E di questi nomi complessivamente, somma di prenome più cognome, ridicoli e vergognosi, basta scorrere l'elenco delle, un banale elenco telefonico, ce ne sono tantissimi. Parducci, le voglio chiedere un'altra cosa, perché abbiamo quasi concluso il tempo a nostra disposizione. Mi viene in mente, perché anche noi abbiamo fatto un po' così di scavo negli archivi, il caso di quell'immigrato che chiamò il figlio Silvio Berlusconi. Ma questo è un nome e un cognome, più il cognome della persona, ovviamente, questo si può? No, secondo me questo non si poteva fare. Ah. In questo caso l'ufficiale di Stato civile doveva agire come ha agito l'ufficiale di Stato civile di Genova, del comune di Genova. Però io vorrei chiarire una cosa. Sì. Torniamo un attimo al nome Andrea. Se lei mi domandasse a me, che svolgo anche le funzioni di ufficiale di Stato civile, se mi nasce una bambina e gli voglio mettere nome Andrea e vengo da lei a fare l'atto di nascita, mi crea qualche problema? Io le rispondo: assolutamente no. Lei lo sottolinea, quindi qualcuno potrebbe trovarlo un problema, ecco. Qualcuno potrebbe trovarlo un problema. E allora, da questo punto di vista, io credo che anche l'ufficiale di Stato civile, quando svolge la sua delicata funzione, deve partire sempre da un presupposto, che la segnalazione al procuratore, che poi innesta quel meccanismo che abbiamo visto per il nostro piccolo Venerdì, è una situazione a cui si deve ricorrere come ultima soluzione, in casi veramente di divieto assoluto, perché io le dico che ci sono dei nomi, le stavo dicendo, che in italiano non si sa bene se sono un maschile o un femminile, o se hanno una corrispondenza al maschile e al femminile. E le dico di più, sarebbe fin troppo semplice dire che, per esempio, Andrea, in quasi tutti gli stati dell'Unione Europea, è un nome prettamente femminile. Sì. Oggi una qualsiasi persona, a maggior ragione un bambino che nasce oggi, un domani sarà un cittadino non italiano, ma sarà un cittadino dell'Europa, che girerà l'Europa, per cui anche il nome deve aggiornarsi al modello europeo e quindi alle tradizioni, alle culture non solo della nostra Italia, ma di tutta l'Europa. In questo senso deve essere l'attenzione che pone l'ufficiale di Stato civile quando eventualmente si mette in testa di fare una segnalazione che apre. Si dovrebbe prima di tutto domandare in che Italia vive, se è quella dell'Ottocento, del Novecento, del 2000 e così via. Mauro Parducci, io la devo ringraziare e salutare, e le auguro ovviamente buon anno. E auguro buon anno a tutti i radioascoltatori. Grazie a Mauro Parducci, presidente Demografici Associati. 24 mattino. Al momento di Bianco o Nero parliamo di affidamento di bambini a coppie omosessuali. Siete d'accordo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Alle 8:34 minuti vi ricordiamo che per votare il sito, c'è a disposizione il sito internet di Radio 24, per chiamarci 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Come dicevamo, il tema è l'affidamento di bambini a coppie omosessuali, ma facciamo prima un passettino indietro alla vicenda che ci ha indirizzato su questa questione. Tutto accade e accadde, anzi, in provincia di Enna. Il Tribunale di Nicosia ha sancito che la relazione omosessuale di una madre, laddove non comporti pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all'affidamento condiviso dei figli. I genitori sono infatti in fase di separazione, il padre di questi bambini voleva l'affido esclusivo dei figli, motivandolo con la relazione omosessuale della ex moglie. Non è accaduto così, il giudice ha deciso diversamente. Avvocato Salvatore Timpanaro è il legale di questa giovane donna omosessuale dell'Ennese. Come ha sostenuto le ragioni di questa signora? Sì. Buongiorno, avvocato Timpanaro. Sì, buongiorno. Sì. Mi sentite? Noi la sentiamo benissimo. Dicevamo, come ha sostenuto le ragioni della sua cliente? Guardi, in primo luogo io devo dire che ho trovato immediatamente una radice costituzionale nella difesa della mia cliente, che è l'articolo 3 della Costituzione. la nostra Costituzione tanto recentemente vituperata, che dovrebbe essere rivisitata e che dovrebbe essere riformata, contiene dei principi di grande civiltà ed è molto lungimirante. Già nel 48, nel 46, nel 48, quando fu emanata, già l'articolo 3 prevedeva che tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, eccetera, eccetera, quindi in primo luogo senza distinzione di sesso. Quindi il primo criterio è stato un criterio di natura costituzionale, perché non si può ovviamente discriminare sulla base del sesso. Del resto l'omosessualità non può più essere considerata una patologia o una devianza, ma è in definitiva, anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una condizione, una inclinazione, una condizione, una variante della sessualità umana. Quindi ovviamente nulla inficia sulle capacità di una persona di essere genitore. Il principio che abbiamo sostenuto e che il giudice preciso che si tratta di una ordinanza resa dal presidente del tribunale in sede di comparizione dei coniugi, per i nostri ascoltatori, cioè sono i provvedimenti cosiddetti interinali, provvisori, che dà il presidente del tribunale all'inizio della vicenda processuale per disciplinare i rapporti tra i coniugi durante lo svolgimento della stessa. E quindi si è trattato di un'ordinanza. Abbiamo affermato il principio, in ciò il tribunale ci ha seguito, che la semplice condizione di omosessualità non può essere valutata negativamente sul piano dell'affidamento dei minori. L'affidamento è stato disposto come affidamento condiviso, secondo il nuovo modulo previsto dalla norma, ma la madre è stata individuata come domiciliataria prevalente, si dice con un brutto neologismo. Insomma, staranno più con lei? Staranno più con lei. Collocataria della prole, cioè in definitiva i bambini resteranno presso la residenza della madre e il padre avrà il suo giusto, quello che una volta si chiamava diritto di visita, cioè potrà prelevare i minori quando lo vorrà, previ accordo con la madre, oppure nei giorni stabiliti secondo quelle soluzioni, diciamo, ormai tradizionali, ormai consolidate. Avvocato, senta, adesso la tengo un attimo in attesa e facciamo quel passetto avanti che dicevamo all'inizio. Quasi nessuno delle tante persone che abbiamo sentito in questi giorni, da quando abbiamo sentito di questa sentenza, ha ritenuto inopportuna questa decisione. Cioè, questa mamma ha avuto bambini prima, durante la sua relazione eterosessuale, poi dopo i genitori si sono separati, eccetera, eccetera. Lei ci ha raccontato come è andata a finire. Insomma, è una decisione, questa del giudice, che più o meno tutti quelli che abbiamo sentito hanno condiviso. Quindi c'è un senso, ecco, diffuso ormai di capacità di capire questa situazione e di considerarla, di considerare giusta la decisione del giudice. E fin qui tutto bene. Però nel momento in cui siamo andati a parlare di figli all'interno di coppie omosessuali, che non sono figli da adottare, figli da chiedere in affidamento, figli che possono nascere da trattamenti di inseminazione artificiale, di utero in affitto, come abbiamo sentito Elton John in questi giorni, ecco, qui casca il mondo. Ma ci domandiamo noi, ci siamo domandati in redazione, che differenza c'è tra un figlio nato prima della dichiarazione di omosessualità, del cosiddetto outing, e uno che invece viene inserito in una coppia omosessuale dopo? Non si è sempre gli stessi, non si è sempre persone capaci o incapaci di educare, perché qui a questo punto la questione è questa. E su questo noi abbiamo deciso di chiedere l'intervento di altri ospiti, e ovviamente su questo noi chiediamo il parere degli ascoltatori sul sito di Radio 24 o al nostro numero verde. Maria Rita Munizzi, presidente del MOIGE, Movimento Italiano Genitori, voi avete una posizione molto netta in proposito. Buongiorno. Buongiorno a voi. Se parliamo di adozione, voi dite no a una coppia omosessuale. Dunque, noi recepiamo quello che anche viene interpretato molto bene dal diritto italiano, cioè quello che tutto sommato è scritto nell'ecologia della natura, il diritto del più debole, che in questo caso viene preservato, almeno in Italia ancora, cioè il diritto del bambino di avere un papà e una mamma, un papà maschio e una mamma femmina, quindi all'interno di un ambito naturale che rispetta l'ambivalenza proprio della natura, quindi papà e mamma. Questo a noi sembra, diciamo... Però mi perdoni se la interrompo, la questione, quello che ci ha raccontato l'avvocato Timpanaro, invece la decisione del giudice in quella situazione lì, voi la condividete? Cioè... Sì, certo, ma guardi, non si mette in discussione la capacità, come lei prima esprimeva, di poter educare, cioè qui non si entra nel giudizio sul fatto che una coppia omosessuale possa non essere un buon genitore. Ciascuno di noi, diciamo come persona, può avere il desiderio ed è legittimo di avere un figlio e può avere le capacità di educarlo. Però voi dite la condizione originaria deve essere... Sì, sì, prego, concluda. No, l'ottica dalla quale noi vediamo la questione è dalla parte del bambino, che poi è l'ottica giuridica. Non a caso i bambini non vengono neanche adottati dai single, tanto per dire, che diciamo indipendentemente quindi dall'orientamento sessuale del single in questione, proprio perché si deve preservare il diritto maggiore del bambino rispetto ad un diritto presunto, per quanto legittimo, di un adulto o di una coppia di adulti di voler adottare. Il bambino non è un oggetto, non è un elemento, come dire, di acquisizione scontato, cioè il bambino è qualche cosa che deve essere preservato, e anche anche la dichiarazione internazionale dell'ONU lo dice molto chiaramente, e quindi questo diritto del bambino di avere la famiglia migliore possibile, tra le altre cose è talmente difficile, l'iter di adozione è talmente complesso, prevede tante di quelle tappe di analisi sulla coppia che vuole adottare, eccetera, che è fatto proprio per garantire questo, che al bambino venga offerta la famiglia migliore possibile. Maria Rita Munizzi, le chiedo un attimo di attesa perché poi continuiamo il discorso. Adesso abbiamo la viabilità, torniamo subito dopo con l'avvocata Susanna Lollini, legale delle famiglie Arcobaleno. Che cosa sono le famiglie Arcobaleno? Un'associazione per l'appunto di famiglie, donne e uomini che hanno accettato la propria omosessualità dopo però aver già avuto dei figli all'interno di una relazione eterosessuale. Sentiremo la posizione dell'avvocata e ovviamente continuiamo a discuterne. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Affidare dei bambini a coppie omosessuali, votate sul sito internet. Come dicevamo, l'avvocata Susanna Lollini, legale delle famiglie Arcobaleno, buongiorno. Buongiorno a voi. La miglior famiglia possibile, quella costruita da un uomo e una donna? Dunque posso fare soltanto una piccola precisazione, perché a parte io sono una dei legali di Famiglia Arcobaleno, ma Famiglia Arcobaleno è un'associazione di genitori omosessuali, non soltanto genitori che hanno avuto precedenti relazioni eterosessuali, matrimoni, convivenze e magari all'interno di queste hanno avuto figli. Ci sono anche questi genitori, ma ci sono anche famiglie di prima costituzione, diciamo così. Quindi a maggior ragione siete interessati alla questione. Esatto, quindi per noi è proprio un discorso a 360 gradi su questo punto. Ovviamente se chiede a noi, noi non possiamo che essere favorevoli all'adozione per le coppie omosessuali, ma devo dire quasi paradossalmente, esattamente per il ragionamento che ha appena fatto la rappresentante del MOIGE, perché quello che si cerca di garantire ai bambini in adozione, cioè bambini che vengono da situazioni di disagio, di difficoltà più o meno gravi, quando i bambini adottati sono neonati forse è meno grave, ma ci sono anche bambini più grandi che invece sono avevano avuto maggiori difficoltà, è quello di dare una famiglia che sia per loro effettivamente un posto, un luogo d'amore in cui crescere, essere educati, stare bene. E l'iter per avere un bambino in adozione è così complesso, duro, difficile, non tutte le coppie che chiedono di poter adottare un bambino vengono dichiarate idonee e quindi potranno avere un bambino, e nonostante questo può capitare che una coppia dichiarata idonea abbia un bambino in affidamento preadottivo e magari non si crei quel rapporto, quel bambino non si inserisce in quel contesto, la famiglia non riesce a stabilire un legame con il bambino e purtroppo l'adozione non si concretizza, non si definisce. Allora noi chiediamo che alle coppie omosessuali sia garantito lo stesso, la stessa possibilità di dimostrare di essere per dei bambini in difficoltà, come sono i bambini da adottare, la miglior famiglia possibile. Dove cade il discorso fatto dal Moige? Che si parte dal presupposto che la famiglia migliore possibile sia per definizione composta da un uomo e da una da un papà, anzi loro dicono da un papà uomo e da una mamma donna, che già questo insomma mi sembra abbastanza come se gli omosessuali non avessero chiara come dire chi è un uomo e chi è una donna. L'omosessualità è un orientamento sessuale, ci sono poi situazioni anche più complesse e più articolate, per carità, siamo forse un po'... Non andiamo troppo, ecco. Vorrei far sentire l'esperienza di Sara da Padova, ci chiama, una mamma lesbica, però il resto ce lo racconta lei. Sara, buongiorno. Buongiorno. La sua esperienza, sì. Quindi magari le cose sono cambiate prima là che qua. Vabbè, questo sì, lei anzi, così magari ci dice un po' quali saranno i passi futuri. Esatto. Di solito succede così, l'onda arriva dopo. Allora, avevo 8 anni quando hanno divorziato i miei. E poi 13 quando mia mamma ha fatto il suo outing, per dire. Sì. E, però lei da... ma tutti e due i miei genitori da più di 20 anni, insomma, stanno con altre persone, no? Mm. Rapporti fissi. E soprattutto nel periodo adolescenziale, il rapporto di mio papà con la seconda moglie è stato molto negativo, perché questa persona ha fatto fatica ad accettare me e mia sorella. Mm. Invece la compagna, che è stata mia mamma, è stata una persona splendida, lo è tutt'oggi. Tanto è vero che i miei figli sono molto affezionati a lei. Mm. Mm. E quindi voi l'avete, come figli, avete accettato questa situazione forse con più normalità, ecco, proprio perché era una persona che vi accoglieva. Beh, esatto, cioè diciamo che certamente non è facile, poi avevo 13 anni, quindi uno sta scoprendo la propria sessualità, per dire. Però questo discorso che sento, ho chiamato perché alla fine non importa, secondo me, uomo, donna, questo o quello, importa che ci sia una coppia che solida, può dare tanto affetto, tanto amore. E questo discorso di è più naturale uomo o donna, non ci credo più, insomma. Lei non ci crede più. Maria Rita Munizzi, la richiamiamo su questa testimonianza. No, ma poi è chiaro che ciascuno si adatta alle situazioni, no? Quindi è comprensibile come magari nel vissuto della signora sia assolutamente normale, però noi sappiamo bene come anche ad esempio i figli di coppie separate un tempo, non un tempo, oggi stesso si dice ma non succede niente, invece poi sono delle ferite profonde. I ragazzini non vivono bene la separazione dei genitori e non vivono bene, crea confusione sicuramente anche comprendere un outing quando succede ad esempio in adolescenza, eccetera. Quindi secondo me è una materia molto delicata quella della sessualità e il rischio di confusione e di magari identificare erroneamente un orientamento sessuale perché si vede la mamma o si vede il papà, diciamo, può rischiare di influenzare poi quello che è l'orientamento reale del bambino. Secondo me quello che è interessante in questo contesto è sia delle famiglie arcobaleno come di questo caso della mamma Sicilia, che ha avuto della decisione, e che si apre uno spaccato interessante, nel senso l'omosessualità noi pensiamo che sia un evento stabile, invece io mi chiedo com'è possibile una persona prima eterosessuale poi scopre di essere omosessuale. Anche ad esempio ricordo le dichiarazioni di Cecchi Paone, no? In un primo momento eterosessuale, poi omosessuale, l'apertura a tornare ad essere eterosessuale, forse non è una condizione definitiva. Quindi lei la vede come un elemento di instabilità, sì, se la pensiamo, esatto, in termini di adozione? Io lo vedo, ma non è che lo vedo io, cioè è così, sembrerebbe così almeno da quello che vediamo, no? Anche in questo contesto delle famiglie arcobaleno. Quindi adesso la fermo un attimo per chiedere all'avvocata Lollini di intervenire su questo punto, l'elemento di instabilità della omosessualità. Guardi, non c'è nessuna instabilità. Le coppie, le persone che diciamo così accettano la loro omosessualità o riconoscono la propria omosessualità dopo aver avuto un'esperienza anche magari di molti anni eterosessuale, sono persone che dicono spesso e volentieri di avere, come dire, vissuto la loro eterosessualità perché non, il contesto sociale non prevede nessuna alternativa, anzi lo stigma che viene dato alle persone omosessuali è per moltissime un freno così grande ad accettare quello che loro sentono come qualche cosa che hanno dentro di loro, perché vi dicono io ero, sono sempre stato omosessuale, ma la società in cui vivevo, la famiglia non mi hanno consentito di... se fosse avessi dichiarato una cosa così, oppure volevo dei figli, volevo una vita normale, volevo una vita che non fosse appunto stigmatizzata dalla società. E quindi non è un caso che queste esperienze siano molto più legate a qualche anno fa. Adesso le persone omosessuali fanno meno fatica, non, no, purtroppo non è facile, ma c'è un po' meno di difficoltà da parte delle persone a dichiararsi omosessuali, ad essere accettate, c'è una società un po' più accettante da questo punto di vista, e quindi è più facile, non c'è nessuna stabilità. Ma in ogni caso questo vorrebbe dire che le coppie non si devono separare. È vero, i bambini soffrono la separazione dei genitori, ma spesso la soffrono solo perché è molto conflittuale. Dove i genitori sono intelligenti e sono capaci di dividere i problemi che riguardano la loro coppia, cioè il conflitto tra marito e moglie rispetto al loro ruolo genitoriale, i bambini capiscono che gli adulti hanno dei problemi, e del resto loro sono, diventeranno adulti, avranno anche loro i loro problemi. Sì, comunque è un'età la loro nella quale è molto difficile comunque fare capire qualunque tipo di situazione che non sia quella nella quale sono nati, no? Voglio dire, qualunque cambiamento è un po' difficile, poi l'accettano, lo capiscono col tempo e la pazienza. No, non è una questione, la signora dice, ma poi ci si adatta alla situazione. Io vi farei venire agli incontri con famiglie arcobaleno. No, i figli di coppie omosessuali... No, ma non parlavo specificamente di coppie omosessuali, io parlavo in generale di figli. Qualunque sia la coppia che hanno alle spalle, comunque una separazione, comunque è una questione difficile che va lentamente digerita, diciamo così. Metabolizzata, ma perché è una sofferenza. È una sofferenza, certo. Scusi, la fermo per l'avvocato Timpanaro, ce lo siamo dimenticato, non ce lo siamo dimenticato in realtà, ma non l'abbiamo più lasciato parlare. Invece avrei avuto piacere di avere anche un suo parere su questa questione, più specificamente di affido a una coppia omosessuale, quindi un caso diverso da quello che lui ha affrontato in quest'ultimo periodo. Certo, guardi, io desideravo fare questo tipo di osservazione, se mi consente. Il nome della vostra trasmissione, della vostra interessante trasmissione, Bianco o Nero. Io credo che mai non si possa in questa materia, ecco, accedere a soluzioni manichee, bianco o nero. Io credo che si debba in concreto verificare se la coppia è idonea o meno, se in sede di separazione qual è il genitore più idoneo presso il quale collocare la prole, in sede di adozione se la coppia sia idonea all'adozione. E ritornando al provvedimento, se mi consente, anche nel provvedimento vi è nel provvedimento del Tribunale Nicosiano vi è un passaggio molto importante laddove si dice che l'eventuale relazione omosessuale della eccetera eccetera, laddove non comporti pregiudizio per la prole. Io credo che la valutazione vada fatta in concreto, e quindi in ciò una relazione omosessuale non è diversa da una relazione eterosessuale. Cioè, se sono le modalità di svolgimento della relazione extraconiugale, per esempio in sede di separazione, che debbono indurre a ritenere la idoneità o meno. Il ricorso del mio interlocutore, del mio avversario, cioè del padre dell'ex marito, era fondato implicitamente, anche se non si diceva espressamente in ricorso, su stereotipi pseudoculturali, espressione di moralismo, e non di principi etici condivisi, per il quale, secondo i quali la condizione di omosessualità potrebbe far perdere all'individuo qualunque freno inibitore, qualsiasi remora a compiere gesti ambigui e perversi addirittura in presenza dei figli. Così occorre valutare in concreto le situazioni, certo, caso per caso, e poi valutare. Il tempo che avevamo a disposizione per discutere l'argomento si conclude qui, ma non si conclude qui la votazione degli ascoltatori. Sempre sul sito internet potete collegarvi e votare. Al momento 71% di no, 29% i sì per l'affidamento di bambini a coppie omosessuali. Grazie ad Alessandro Longoni per questa settimana in assistenza, Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo lunedì. A tutti quanti un buon 2011.